La nuova dignità impediva a Suor Lorenza di scendere per prima incontro alle ragazze come usava una volta. Dalla sua stanza, ove ella era seduta leggendo, udiva il suono della campanella che chiamava Suor Luisa in parlatorio e sobbalzava. Le pareva di percepire fin l'affrettato fruscio della gonna di lei per le scale. Nessuna veniva a chiamarla, e tuttavia ella ogni volta lo sperava. Certe volte non resisteva più, usciva fuori e domandava: «Perché non mi avete chiamata? Non volevamo disturbarvi, madre!» Ed ella, senza replicare, ritornava su. Più tardi, preceduta dalla giovane suora veneta, la nuova arrivata veniva presentata a lei. Misteriosi bisbigli la guidavano verso lo studio della superiora. Dinanzi alla madre, le ragazze prendevano un'aria compunta e poco naturale. Qualcuna tentava perfino di baciarle la mano. Dopo le poche domande convenzionali, Suor Luisa le riconduceva. Appena fuori di quell'orribile stanza col tappetino rosso, la poltroncina rossa, le ragazze si rianimavano. Suor Lorenza, rimasta sola, apriva il registro e cercava i nomi e le date. La sola che, rientrando in collegio dopo le vacanze, venne subito a salutare lei fu Silvia Custo. Entrò, prese la sedia, sedette senza essere invitata e parlò della tesi, pochi giorni ormai, e dopo, chissà, purché non dovesse lasciare Belluzzi. Poi guardò dalla finestra giù nel cortile, le pianticelle ordinate, le panche delle monache. «Sempre tutto uguale qui», disse. «Ti sembra proprio tutto uguale?» le chiese Suor Lorenza con amarezza. «Sì, e mi pare impossibile che tutto continuerà così, anche quando noi non ci saremo più. Vede, è strano. Al paese non ricordavo quasi più come era fatta la mia camera, dove stava il cassettone e perfino i volti delle compagne. Ma apparivano difficilmente e solo in certi particolari atteggiamenti. Anche il suo volto, Suor Lorenza, madre, certe volte era proprio, scusi, distante, diluito, come certe figure viste in sogno. Di lei ricordavo la voce piuttosto. Mi sembrava che il collegio dovesse essere caduto in letargo durante la mia assenza, persone e cose, e adesso che ci sono, invece, mi sembra di non averlo lasciato mai. Anzi, le dirò, sono rientrata in collegio appena messo il piede in treno. Dopo tornarono Anna e Valentina, e ultima fu Emanuela. S'abbracciavano e poi restavano sorridenti, senza sapere che dire. Stai bene? Ti sei ingrassata? Ti sei divertita? Anna spiegò, mostrando il lutto: «Ho perduto la nonna», e le altre fecero il volto contrito, ma per un attimo soltanto. Si sa che un giorno tutte le nonne muoiono. Silvia disse: «Mia sorella Immacolata aspetta un figlio». Emanuela parlò del viaggio, ma le altre, che non conoscevano quei luoghi, vi si interessavano poco. La loro amicizia era nata lì dentro e viveva delle cose che le circondavano. Augusta non scendeva mai incontro a nessuna. Quando Emanuela salì a trovarla e spalancò la porta per farle una sorpresa, la trovò come l'aveva sempre immaginata in quei 2 mesi, seduta al tavolo che leggeva. Margherita si trascinava per terra accanto a lei. Augusta s'alzò per andarle incontro, la baciò, le chiese: «Come mi trovi?» «Bene?» «No, non sto bene. Non vedi come sono smagrita?» «Beh, un poco, molto. È il lavoro. Ho lavorato notte e giorno, sfiatata dal caldo, certe volte neppure mangiavo. A proposito, grazie delle cartoline. Non ti ho risposto, avevo perduto la testa, ho quasi finito. Un grande romanzo». «Un romanzo?» «Sì, vedrai che questo non lo rifiuteranno, ti dirò. È un romanzo di tipo universale, un romanzo contro gli uomini. Sostengo, insomma, che si può benissimo fare a meno di loro. Dimostro che se li sopportiamo è soltanto per crearci una situazione sociale, non per attrazione del sesso. Dico anzi dell'orrore istintivo che la donna ha per questa belva, dell'assurdità della posizione sociale della donna nel matrimonio. Un libro rivoluzionario. Si svolge all'estero in gran parte e mi vendico. Hai notato che in ogni romanzo straniero, se c'è una parte brutta da fare, una parte losca, la fanno sempre fare a un italiano? Gli americani soprattutto. Mi vendico, due figure di mariti traditi ci sono, due stranieri. Ti dico, un romanzo internazionale, tutte le donne italiane lo leggeranno. Sono curiosa, lo potrai vedere? Vuoi che te lo mostri? Aspetta. Tirando indietro il grosso seno, trasse dal cassetto del tavolino un pacco di cartelle. Lo prese con mano leggera, lo guardò, lo soppesò e quindi lo offerse all'amica dicendole: Eccolo. Attendeva una parola da lei, come se al solo contatto, alla sola vista, ella dovesse esclamare, dire: Oh, è splendido! Emanuela prese il manoscritto, lo scorse, tutte cartelle uguali, folte, tante, quante, 300 forse. Poi guardò Augusta, era davvero smagrita. Aveva un'aria affaticata e sotto gli occhi un solco livido. Si vedeva che tutta l'estate era passata su di lei seduta lì, a quel tavolino. Sinceramente ammirata, disse: Quanto devi aver lavorato. Augusta, traendo un sospiro, annuì: Tanto. E restò pensierosa. Nei mesi trascorsi, al crepuscolo veniva dalla villa un invito. L'aria stagnava sulla soglia della finestra. Il collegio era deserto, anche le suore uscivano a giocare nel cortiletto. Incerta, ella guardava fuori, lasciava che i suoi occhi s'abbacinassero nel grigio metallico del cielo. Esco, non esco, e infine si vinceva. No, rimango. E sapeva che bisognava farlo, sacrificarsi. Le ore pesavano come giorni, le settimane come anni. Non c'è tempo, non c'è tempo. Al paese gli increduli aspettavano, sorridendo. E niente ancora era deciso. Anzi, tutto la respingeva a vivere in quella sbadigliante parentesi d'attesa, sospesa in una giovinezza fittizia, senza il coraggio di abbandonare decisamente l'una e passare all'altra sponda. Tanto ho lavorato, ripeté, tanto. Fece una pausa e poi, avvedendosi di aver parlato soltanto di sé, chiese a Emanuele: Tu che hai fatto? Io? Ho viaggiato. Ma papà non sta bene, è giù. Mi sono fidanzato ufficialmente. Ah sì, e quando sposi? Dopo la laurea di Andrea, tra un anno. Augusta neppure si congratulò con lei. Si alzò, prese dal comò una bottiglia che pareva un medicinale e due bicchierini. Vuoi? Chiese all'amica. È un liquore d'erbe, roba sarda, roba selvaggia. Ha un gusto strano, non so se ti piacerà. Assaggialo. Versò il liquore. E beve in silenzio, assaporando. Poi domandò a bassa voce: Sei contenta di sposare? Sicuro. Sei proprio innamorata? Tanto da non poter fare a meno di lui? Certo. Di nuovo Augusta tacque e accese una sigaretta. Aveva preso gesti e costumanze maschili, teneva la sigaretta tra le labbra di traverso, la lasciava pendere. Il corpo era invece grasso, di femmina flaccida. Fumi anche adesso? Le chiese Manuela. Sì, l'ho imparato lavorando, per tenermi sveglia. Crollavano tra di loro, imbarazzanti silenzi. Emanuela sentiva che l'amica si preparava a un discorso e istintivamente avrebbe voluto evitarlo. Era il crepuscolo. Ombre lente invadevano la stanza. Emanuela desiderava accendere la luce, ma chissà perché non osava. Attraverso l'ombra i piccoli occhi scuri di Augusta la fissavano, attenti. Emanuela, t'ha baciata Andrea? La ragazza avrebbe voluto ribellarsi all'interrogatorio, ma restava soggiogata dall'amica. Era forse l'età di lei, o il suo portamento, o quell'esistenza isolata e un po' misteriosa che conduceva, ecco, la temeva quasi. Sì, rispose. Baciata sulla bocca? Sì. E ti piace? Continuò a più bassa voce in confidenza. Senti, tu ti sposi, ebbene, non avrai più un momento per te, più nulla di tuo, neppure il tuo nome. Anche un tuo figlio sarà suo, gli dovrai tutto. Perderai la tua personalità, sarai soltanto la moglie del signor Lanziani, egli avrà il diritto di sapere ogni tuo pensiero e se glielo nasconderai sarà un tradimento. Avrai il diritto di entrare nella tua stanza anche di notte, di metterti le mani addosso a ogni ora del giorno se vuole, guardarti mentre ti pettini, mentre dormi. Ti dirà usciamo e tu dovrai seguirlo. E tutto ciò che finora è stato solamente tuo non t'apparterrà più, ma egli ti porterà il ricordo di innumerevoli altre donne di un passato che non sai. Ti piace veramente quella sua maniera di baciare? Io ho ancora sulle labbra un bacio, sì, di molti anni fa, e se ci ripenso, sputo. Eravamo in giardino, fuggii verso la casa, affannata. Tanti anni sono passati, ma chi dimentica? Quell'ora è sempre qui nel mio ricordo. Hai pensato a tutto questo, Emanuela? Sì, sempre vi pensava e attendeva. Sarebbero ritornate finalmente ore simili a quelle passate con Stefano nella casetta del viale dei Colli. La luce spenta, il crepuscolo azzurro e quello smarrimento. Dopo quel grato accucciarsi contro il petto e l'ascella di lui che aveva un forte odore, un odore d'uomo. Bisognava dire: che donna sei, Augusta? Io l'ho provato, è bellissimo. Le tue sono ubbie da zitella, come scrupoli davanti al confessore. Ma invece godeva a recitare quella parte di ingenua e perciò solamente rispose: sì, vi ho pensato. Temo che dovrai pentirti. Tu sei ricca, molto più ricca di me. Io ho appena quanto basta per vivere modestamente. È la povertà che rende le donne schiave degli uomini. Molte altrimenti non saprebbero come fare, ma tu potresti viaggiare, andare ad ascoltare la musica. Non ti piace la musica? Io quando vado ai concerti sto lì, zitta, la testa tra le mani. Allora sì, mi sento divinamente smarrire, trattengo il respiro, incerti pianissimo, temendo di rompere l'incantesimo. Poi torno a casa e mi metto a scrivere. Da piccola, quando ascoltavo la musica, pensavo che l'amore dovesse essere una sensazione simile a quella. Non ti piacerebbe vivere così? Sì, Andrea e io infatti viaggeremo, andremo a sentire la musica, leggeremo la poesia. Augusta trasse l'ultima boccata dalla sigaretta e spegnendola soggiunse: già, è come essere ciechi nati. Pochi sono i veggenti, per questo io sto scrivendo il libro. Sarà come lo squillo di una formidabile tromba d'argento. Dopo una pausa chiese: e tuo padre che ne dice? Che deve dire mio padre? È contento? Che aveva detto a suo padre? Era andata a dirglielo la mattina prima della partenza per il viaggio in Alto Adige sul Garda. L'aveva trovato in maniche di camicia che preparava la valigia. Era un'operazione che egli amava fare con calma e avvedutezza, e perciò forse il momento non era scelto bene, ma ormai era entrata con la faccia delle grandi occasioni. Papà, vecchio, caro papà, nella camicia bianca, con i calzoni bianchi, la testa calva e bianca, sembrava una vecchia cera. Quello che doveva dirgli lo avrebbe scosso, ma ella non se ne preoccupava. Era sempre entrata con la sua vita nella vita di lui, d'improvviso. Così era entrata a dirgli che era fidanzata con Stefano, che era incinta, che voleva riconoscere la figlia, che voleva raggiungere Stefania, l'aveva tormentato per Stefania e adesso, dopo tante tragedie, tranquillamente andava a dirgli che voleva sposarsi. Tornata dal collegio appariva docile e benevola, mai più aveva avuto il volto cupo, chiuso. Era tornata con una chiarità di adolescente, si muoveva e si vestiva con semplicità, era più attiva. Negli occhi aveva una luce di innocenza. È una madre, una vera madre, il vecchio aveva pensato. Si è appagata nella vicinanza della figlia. E ora? Comprese che l'appagamento veniva dal romanzetto d'amore. Anche di questo sei l'amante. Emanuela rispose con un fiato di voce lamentosa. Oh papà, perché mi giudichi così ormai? Non posso essere brava, essere saggia come prima di ciò che è accaduto. Egli rimase un momento a guardarla, poi disse: sì, forse lo puoi ancora, sei giovane, ma c'è Stefania. Beh, potrebbe andare in un collegio all'estero. Tu hai sempre detto che Stefania non avrebbe dovuto influire sulla mia vita. Sì, ma tu dopo mi convincesti del contrario. Beh, ho sbagliato. Quante volte hai sbagliato, figlia mia? Ella tacque contrariata. Quante volte hai sbagliato? Riprese il padre. Mi sembra che ormai, dato lo stato delle cose, sia molto difficile eliminare Stefania dalla tua vita, e tu mi hai convinto che non sarebbe neanche giusto. Lui che ne dice? Sì, insomma, questo ragazzo, questo Lanziani, che ne dice? Andrea non lo sa. E allora? Eruppe irritato. Ma non capisci l'assurdità di discutere questo argomento? Digli tutto e dopo, se ancora lui vorrà, ne parleremo, vedremo. E riprese a riporre le camicie, le spazzole, premendosi a tratti la fronte corrugata, perché quei discorsi l'avevano distratto da questa cura essenziale, fare bene la valigia. Il pensiero di Emanuela s'accanì contro la bambina. Stefania era in villeggiatura ad Amalfi con le suore, collegio di primo ordine, villa magnifica, compagne titolate, mangiava, beveva, si divertiva. Non è abbastanza tutto questo per lei? Perché esiste? Può impedire a me di esistere? Avrebbe dovuto seguire il consiglio di suo padre, allora. Con le nuove organizzazioni i trovatelli stanno benissimo. Studiano e quando escono hanno l'avvenire assicurato. Sono liberi, felici. Neanche la seccatura di avere i genitori, assisterli, dovere il loro rispetto e obbedienza, mantenerli. Ah, era in una situazione difficile. Non voleva ancora parlare con Andrea. Bisognava averlo fatto il primo giorno o tacere, aspettando. Papà, lui, preparava la valigia per il suo viaggetto annuale e se ne infischiava. Stefania mangia, beve, gioca, indifferente e capricciosa come suo padre, quando non si controllava. Suo padre. Aveva un padre veramente, Stefania? Era stata veramente vissuta quella storia di Stefano? Tutto ciò le appariva adesso come un racconto fantastico di quelli che si inventano per gli altri e a forza di ripeterli diventano veri anche per noi. Le sembrava che la concezione di Stefania fosse dovuta a lei soltanto, una sorta di tumore, un tumore maligno. E se raccontasse ad Andrea che era stata una disgrazia? Una di quelle aggressioni che si leggono sui giornali, come al tempo dell'invasione dei tedeschi. Tornando a casa da Firenze, a Maiano, la strada solitaria. No, no, era assurdo. E poi papà non si sarebbe prestato alla commedia. L'esistenza di Stefania, l'invisibile presenza di lei, costringeva la sua vita, l'opprimeva, le toglieva il respiro. Dunque non avrebbe mai avuto il diritto di disporre di sé e del suo avvenire a 25 anni? E avanti a ogni suo disegno inesorabile s'alzava quell'ostacolo, Stefania. Partirono. Il viaggio fu una sofferenza. Nell'automobile taceva guardando fuori dai vetri. Certe volte, annoiata, s'addormentava. Non era più padrona della sua volontà come al collegio. Era papà che decideva tutto. Sì, Augusta aveva ragione. Come si può tornare a rinchiudersi dopo aver assaporato la libertà? Tutte pensavano così, tutte, ragazze intelligenti al di sopra della media. Aveva fatto bene Xenia ad andarsene, ma questi sono privilegi che possono avere i poveri di buttare la propria vita allo sbaraglio. Per gli altri c'è il mondo, ci sono gli interessi. E poi, malgrado le proprie idee libere, quando si vive in un certo ambiente non si ha il coraggio di mandare all'aria le tradizioni. Magari sarà uno stupido rispetto umano, ma è invincibile. Molte cose che sono giustificate quando si è assillati dalla miseria non sono ammissibili invece quando si ha un bel nome e molto denaro. Molto denaro. Eppure, con tutto ciò, i genitori sempre si preoccupavano di scovare gli alberghi meno cari, i ristoranti modesti. Stefania, finiti gli studi in Svizzera, avrebbe avuto una buona dote con quel denaro. Si sarebbe sposata certamente. Il denaro conta più del nome. Ogni giorno parlava a papà. Ogni giorno lo convinceva un pochino. Egli l'ascoltava e intanto puliva gli occhiali perplesso. Mamma aggiungeva una parola buona. Sì, davvero, mi sembra, Beppi. Emanuela non faceva che parlare del suo diritto di rifarsi una vita. Andrea è un bravissimo marito. Chi non conosce gli anziani a Roma? Un'esistenza ordinata, come avresti desiderato per me prima, quando crescevo e divenivo una ragazza grande. Devo rinunciare a tutto questo. No, no, incalzava la madre, perché dovrebbe rinunciare? Ed Emanuela prometteva, appena a Roma parlerò ad Andrea, troverò il momento adatto. Quando furono di ritorno a Maiano e papà trovò sul tavolo la lettera di Andrea, stanco del viaggio, preso d'istintiva simpatia verso il ragazzo attraverso le sue parole, assillato dalla moglie e dalla figlia, rispose che sì, il suo consenso l'avrebbe dato. E non parlò di Stefania. Che deve dire mio padre? È contento? Dopo una pausa, Augusta assentì. Bene. Poi, avvedendosi che era quasi completamente buio, è tardi, osservò, scendiamo a mangiare. Nel corridoio incontrarono altre ragazze che scendevano. Le nuove serbavano un'aria smarrita. Una di queste studiava il canto e si diceva che sarebbe divenuta una grande soprano. Era lei che suonava e cantava l'armonium al posto di Milly. Per questo le ragazze non l'avevano in simpatia, suonava diversamente. La sua voce, bellissima, scuoteva la cappella senza commuoverla. Si capiva che era una donna a toccare i tasti e non l'angelo. La prima volta che la nuova cantò, Emanuela scoppiò a piangere e ricordò quando Milly le accarezzava piano le dita e gliele lisciava, quando leggeva con le mani le lettere del cieco. Era stata trascurata con lei negli ultimi tempi, per causa di Andrea. Se lo rimproverava acerbamente adesso. La nuova ragazza, passando accanto ad Emanuela e Augusta, disse con voce melodiosa: Buonasera. Si capiva che avrebbe voluto unirsi al loro gruppo, anima intelligente del collegio, ma le due amiche le risposero buonasera, gelidamente, senza riuscire a vincere una istintiva ostilità. No, a tavola, disse Silvia, nessuna nuova deve entrare tra di noi. Ci estingueremo a poco come un nobile casato. Xenia è scappata, Milly è morta, Vinca. Già, Vinca? Emanuela interruppe. Non l'hai vista? Venne qui dopo l'arrivo di Anna e Valentina. Tu eri a Firenze, ancora. Sta come prima, aspetta. È andata ad aspettare in casa di Donna Inés, quella spagnola fanatica. Non parla che di Luis, si è fissata. Dà lezioni di spagnolo, fa qualche traduzione. Va a trovarla. Abita qui vicino, in via Sistina 87. In via Sistina 87 una vecchia casa malandata. Un lungo portone oscuro e scale sconnesse di peperino. Sulla porta il campanello gracidava come una ranocchia, ma dentro era Spagna. Poche camere ingombre di tutto quello che i profughi avevano potuto portare via dalla rovina. Alcuni arredi testimoniavano la passata ricchezza, coppe di argento, vecchie porcellane, cristalli, l'uno accanto all'altro, sui piani dei mobili. Alle pareti, ritratti dei principi, ritratti di Pilar e Ignazio bambini, cartoline che gli amici mandavano dalla Spagna e che le donne infilavano dappertutto, nelle cornici dei quadri, per formare paesaggio casalingo. Un pianoforte, ventagli aperti, oggetti di rame sbalzato di lavorazione gitana, alcuni scialli buttati sui divani, le frange pendenti in terra. I nuovi eventi avevano fatto sì che sotto il profilo borbonico del re esiliato fosse appiccata con le puntine una fotografia del generale Franco ritagliata da un giornale italiano. In mezzo alla tavola, su due asticciole d'ebano, sventolavano due bandiere spagnole nazionaliste. Per il pranzo non si mettevano fiori sulla tavola e quelle due bandierine erano l'unica guarnizione e su tutte le cose regnava un impolverato disordine. Donna Inés e Pilar restavano in letto fino all'ora del desinare. Questo al principio parve addirittura indecente a Vinca, abituata agli orari del collegio. Appena alzata svegliava l'amica che dormiva nel lettino attiguo. Alzati, Pilar! Che c'è? Perché mi devo alzare? È tardi, sono le 9. Io dormo. È una vergogna, Pilar. Ma no, perché? Che faccio in piedi? Pilar si mostrava energica soltanto in questa difesa del suo sonno. Anche nella lontananza da Pepe dava prova di rassegnazione, di quelle rassegnazioni che un giorno però possono buttarsi dalla finestra. Se al mattino Vinca usciva per dare una lezione, tornando trovava le due donne ancora in vestaglia. Donna Inés s'affaccendava per la casa dietro la donna di servizio o scriveva. Scriveva lunghissime lettere seduta alla tavola da pranzo e quando apparecchiavano lei scostava un piatto e continuava. Scriveva a tutti. Erano le sue piacevoli lettere dal tono sinceramente appassionato. Della Spagna cercava continue notizie e perciò i giornali s'ammucchiavano sulle sedie. A ogni battaglia spostava le bandierine sulla carta con una competenza geografica acquisita per l'occasione. Ora per ora viveva la guerra. Le ore pomeridiane, naturalmente, poiché al mattino non poteva a meno di dormire. Invece Pilar attendeva l'ora del desinare seduta avanti alla toletta spazzolandosi i capelli. Questa era la sua prediletta cura. Aveva capelli neri, lunghissimi, divisi nel mezzo da una scrupolosa scriminatura. Cadevano di qua e di là della fronte politi come l'onice nera. Meccanicamente li lisciava, passando la spazzola con diligenza dalla radice fino alla punta. Poi li accarezzava con la mano gustosamente e, sempre desiderosa di una maggiore perfezione, ricominciava. Spesso Vinca sedeva di faccia a lei e così discorrevano. Parlavano dei due assenti e sopportavano il peso della giornata nell'attesa della posta che d'ordinario arrivava verso sera. Perciò non uscivano di casa nel pomeriggio e, seguendo l'uso spagnolo, si mettevano alla finestra tutte e tre, Dona Inés a destra, Pilar a sinistra e Vinca in mezzo, affacciate come al palchetto di un teatro. Era quello il solo momento nel quale si concedessero un po' di distrazione. Si sedevano lì, pettinate, incipriate, con le pantofole ai piedi che intanto non si vedevano, attente, guardavano la strada come uno spettacolo. La gente andava a passo lento, le donne indugiavano davanti alle vetrine, alcune si recavano alla piazza Trinità dei Monti per un appuntamento d'amore e avevano un'aria speciale, più risoluta o guardinga. Spesso rifacevano la via in due, sotto braccio. Le spagnole li conoscevano ormai. Li rivedevano con simpatia. Vinca, che era la più immaginosa, ricostruiva le vicende di quei passanti come un romanzo. Questa qui certo va per l'ufficiale, oppure questi due hanno l'appuntamento il giovedì. Quando non vedeva passare una coppia per lungo tempo, se ne rammaricava e poi diceva: forse non è finito, forse si danno appuntamento altrove. A un tratto una di loro annunciava: eccolo! E con un unico sguardo le donne seguivano il postino, il quale entrava nei negozi, nei portoni, oppresso sul ventre dalla grossa borsa come da un'obesità, e infine spariva nel portoncino di casa loro. Trascorrevano minuti di indicibile angoscia per le tre donne che tacevano, il cuore in tumulto, fingendo di osservare ancora fuori dalla finestra per ingannare questa atroce attesa. Il tempo passava. La portiera è lenta, le scale sono molte, certo si è fermata a parlare. Troppo tempo passava certe volte e una di loro osava dire infine: non c'è nulla. Quando invece gracidava la rana della porta, s'alzavano tutte e tre, gli occhi spalancati come allucinate. Calma, calma, raccomandava Donna Inés. La posta, il più sovente, era per Pilar. Lui e Ignacio erano pigri. La ragazza andava a leggerla in camera sua, seduta alla toletta come quando si pettinava. Le altre che aspettavano trovavano sempre troppo lungo l'intimo colloquio, poco riguardoso addirittura. Se anche non arrivavano lettere di Luis, sempre quelle di Pepe parlavano di lui. Pilar le rileggeva ad alta voce, dicevano che era molto bravo, sempre bravissimo era stato. Alcuni falangisti erano poco più che adolescenti e Luis faceva loro animo, era un esempio per tutti. Vinca poteva essere orgogliosa. Vinca era orgogliosa. Quando Emanuela andò a trovarla, notò che la ragazza pareva avere una febbre interna. Sotto la pelle, sempre le nari le palpitavano, la bocca, dalle labbra disordinate, sembrava avvizzita. Era pur sempre, per gli occhi e il corpo slanciato, una ragazza assai bella. Portava la stessa vestaglia che al collegio, ma più sporca. Siete tornate? Ci siete di nuovo tutte? Disse con voce rigata di nostalgia. Si sentiva che avrebbe rimpianto di non essere con loro se l'assenza di Luis le avesse lasciato posto per altri rimpianti. Rammenti, l'anno passato c'eravamo tutte. Tu arrivavi nuova e fu Xenia a volerti con noi. Chissà che fine avrà fatto Xenia. Si stava pur bene. Non potrò mai dimenticare. Che tempo felice! È un peccato che ci si avveda di aver vissuto una felicità solo quando è trascorsa. Quante cose in un anno. Ti ho mostrato la fotografia che Luis mi ha mandato dal fronte? Sì, l'ho vista, sta benissimo. Sì, sta bene. Fece una pausa e riprese più adagio. Io non sto bene. A quel tempo non amavo veramente. E un giorno senti che un tarlo ti rode l'anima, la salute, qualcosa ti opprime, ti gonfia il cuore, ti intossica finanche l'aria che respiri. Allora è l'amore, una malattia. Ricordi com'ero allegra in collegio? Ridevo, facevo i dispetti alle suore, cantavo. E ora, chi avrebbe più fiato per cantare? Il fiato se ne va in amore come il sangue, sai, quando è veramente amore, quando credi che se quell'uomo ti manca tu ti ammazzi. Quando egli t'appare l'essere più perfetto del mondo, senza difetti. Tutti gli esseri umani hanno difetti. Quando non li vedi più, è segno che sei innamorata. Quando li ritrovi, non lo sei più. Se una donna dice: l'ho lasciato perché era troppo geloso, vuol dire che non era più abbastanza innamorata da sopportare la sua gelosia. Non è così? Se dice l'ho lasciato perché faceva il ladro, vuol dire che si era stancata di lui, se no gli avrebbe chiesto quando mi porti a rubare con te. Non credi? Sì, rispose Emanuele, intanto si domandava se era così che lei amava Andrea. Vedi, adesso io vivo per l'ora della posta. È l'uncino al quale appendo le mie giornate. Se mi mancasse sarei senza centro di gravità, rotolerai nel buio. Non avevo mai considerato quanto la Spagna fosse lontana. Giornate di treno. Adesso conosco l'orario d'arrivo e di partenza dei treni e studiando queste cose mi aiuto a rimanere viva. Magari la posta non porta nessuna lettera, ma intanto si è attesa quell'ora con speranza e poi, appena passata quell'ora, si comincia ad attendere quella del domani con uguale speranza. La posta arriva alle 10 e alle 6. Io mi affaccio alla finestra. Apro la porta sulle scale, conto i minuti. Il cuore prende a battermi. Non so più quel che dico, divento nervosa. Se un giorno l'ora passasse per me e lo squillo dei campanelli mi sorprendesse, pensando ad altro, allora comincerebbe il declino. Vero, Emanuela? Sì, almeno questa è la tua maniera d'amare. No, ci sono molti modi di amare, ma l'amore è uno solo, come l'arte. Mille forme. Ma l'arte c'è o non c'è? Così il mio amore non è diverso da quello di una senegalese o di una svizzera, sia qua che là, o si ama o si gioca. Beh, bastava guardarla per capire che lei non giocava. Emanuela la fissava meravigliata e non poteva a meno di osservare anche quanto c'era di povero in lei. Le calze rammendate, la vestaglia sudicia. Ella lo capì e disse quasi rispondendo a una domanda dell'amica: Sì, e in queste condizioni non mi importa neppure di essere senza soldi. Molti se ne vanno per la posta. Scrivo ogni giorno per via aerea. La vita è cara, sono vestita male, ma intanto adesso Luis non c'è. Quando tornerà mi farò un cappotto nuovo. E quando tornerà? Non si sa, non si sa nulla. L'essenziale è che ritorni. Tu lo capisci, no? Le disse prendendole le mani. Io certe volte penso se non tornasse più. Ogni giorno che non c'è posta penso che forse non scriverà mai più. E Pilar pensa lo stesso. Adesso gli occhi parevano tremarle sotto le lacrime. I suoi nervi si indovinavano così tesi che Manuela si alzò. La carezzò, la baciò per consolarla. Perché dici questo, Vinca? Non dire questo. Non lo dico mai. Nessuna di noi lo dice. È la sola cosa della quale mai si parla. Ogni giorno nei giornali appaiono le fotografie di quelli che non scriveranno più, quelli che hanno la medaglia. Io non parlo, Pilar non parla, Dona Inés non parla, lei ha il figlio, Ignacio, sai. Eppure a noi pare che la sua pena debba essere minore. Se Pepe viene in licenza, Pilar sposa subito. E tu? Io? Io che ne so? Non ne abbiamo mai parlato. Prima era come uno scherzo per me. Uscivo con lui per respirare aria di casa. Poi, quando gli ho voluto bene davvero, è partito. Ma lui deve pensare a studiare. Hai visto quel giorno nello studio che stupendi progetti? Un grande ingegno, Luis. Chi ha mai parlato di matrimonio? E tu, quando sposi? Emanuela rispose evasivamente e cambiò discorso perché di fronte all'amore di Vinca si sentiva umiliata. Presto la lasciò e per distrarsi passeggiò fino all'ora dell'appuntamento con Andrea. Si domandava se il suo era veramente amore. Non ne aveva mai dubitato finora, ma adesso si scopriva troppo calma nei confronti di Andrea. Eppure Andrea era 100 volte migliore di Luis. Luis le era sembrato di un'intelligenza mediocre, di poca raffinatezza, anche di scarso talento, brutti disegni, comune il suo modo di parlare. Ma Vinca non lo vedeva così. Ella invece conosceva i difetti di Andrea. La presunzione prima di ogni altra cosa. Ma quella è la malattia di tutti i giovani di oggi. E poi era ombroso e ritroso come un puritano. Anche le poesie che gliele aveva letto non le sembravano grande cosa. Parole vaghe, non legate fra di loro, cose moderne, lui diceva. Però Andrea vestiva molto bene.